anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è la nuova puntata dei recuperi vinilici di Basement Record. Questa, come di consueto, era la sigla della trasmissione, il divertissement pop di Pierre Henry e l'Esiper Sound con Psyché Rock. Brano poi reso famoso, appunto, come amo ricordare, reso famoso da Matt Groening, che l'ha usato per la sigla di uno dei suoi cartoon più fortunati, oltre ai Simpson, ovvero Futurama. Infatti la sigla di Futurama è Psyché Rock picciato a più 5, come mi piace sempre ricordare inizio puntata per scaldarmi, ma appunto sapete che sono un abitudinario, quindi prima di fiondarci tra i solchi dei vinili di stasera, ricordiamo gli indirizzi per mettervi in contatto con noi qui di Radio Wombat, e il sito è sempre radiowombat.net. La frequenza sulla vostra autoradio o radiolina, se siete nei dintorni di Firenze, in onde medie, in onde mediocri per gli amici è sempre 1359 1359 in onde medie, mi raccomando. La nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social sono sempre Twitter, su Twitter, twitter.com/radiowombatfi e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Seguiteci, mi raccomando. Alziamo un po' il volume del microfono e poi partiamo subito con il primo disco di stasera, un classicone di recupero. Non si sa come mai certi soggetti abbandonino lungo le strade o nei mercatini certe chicche, però poi arriva il vostro Penapoco e li recupera perché era veramente peggio di un omicidio lasciare un capolavoro del genere abbandonata a se stesso, o meglio, l'ho preso io prima che lo potesse prendere qualcun altro. E stiamo parlando di un grandissimo classico che ho già, penso di aver già ampiamente trattato in una puntata precedente, in questo caso di Tonight Alive. E infatti stiamo parlando uno dei primi singoli di una disco diva di Donna Summer, e in questo caso uno dei primi dischi che ha prodotto l'accoppiata vincente di produttori Giorgio Moroder e Pete Bellotte per Donna Summer. Stiamo parlando di quel brano epocale che è stato Love to Love You Baby, un singolo del 1975, singolo per modo di dire, visto che è un'intera facciata di un 33 giri. Infatti la sua durata monster per gli standard disco dell'epoca fece abbastanza scalpore. Qui siamo ancora in divenire, prima delle extended version, prima dei remix, e Giorgio Moroder è stato un grandissimo produttore, anche perché ha aperto appunto queste nuove strade all'interno della musica dance. Quindi chiaramente bisogna essere appassionati del genere. Però poi ha fatto talmente tanta scuola che questa cosa delle versioni estese è poi sconfinata anche in generi più meramente popular. E che dire di altro, visto che la puntata monografica su Giorgio Moroder penso che si aggirasse intorno alle 3 ore. Se non andiamoci ad ascoltare questo capolavoro imperituro di metà degli anni 70. Questo è appunto Love to Love You Baby di Donna Summer, coadiuvata appunto da Giorgio Moroder e Pete Bellotte. Qui siete sempre ai recuperi vinilici di Basement Records e sempre qui a Radio Wombat. E dove se no? Spinning, spinning, yeah.

Baby. Grandissima, grandissima Donna Summer, coadiuvata appunto dal mitologico duo di produttori Moro De Rebol e Bellot, un pezzo che ha fatto veramente storia, ha fatto anche molto scalpore, credo che addirittura in qualche paese sia stato censurato questo pezzo per i gemiti e gli ansimi di Donna Summer, però ebbe veramente un grandissimo successo, anche perché stiamo parlando di un'epoca anche addirittura pre-disco, perché qui siamo nel 1975, tutti i cliché, gli stilemi della disco music erano ancora lì da avvenire, e qui dentro già ne troviamo un bel po', direi, oltre all'orchestrazione suonata e tutto, gli archi, memory appunto del sound di Philadelphia e della Sal Soul Records, che tra l'altro Sal Soul Records verrà addirittura dopo, direi, più della Philadelphia International. Però passiamo al secondo vinile, perché anche questo è sempre di Donna Summer con Giorgio Moroder e Pete Bellot al produrlo. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che fosse il terzo disco di Donna Summer, uscito poco tempo dopo appunto questa Love to Love You Baby. Infatti è un disco del 1970, fine del 1976, inizio del 77. A quando l'ho visto mi sono venute gli occhi a cuore, perché questo è un pezzo che amo particolarmente della discografia appunto di Donna Summer, Spring Affair, dal disco Four Seasons of Love. Un pezzo che ci ho messo un po' per ritrovarlo, perché lo sentivo quando ero giovane e non lo conoscevo, l'avevo ritrovato in diversi DJ set di DJ disco e quella che era la free house non lo conoscevo, e poi appunto una volta trovato ero venuto a sapere, ho scoperto che era di Donna Summer e prodotto da Giorgio Moroder. Stiamo parlando appunto di Spring Affair, un disco che avrei preso anche solo per questo pezzo, da quanto lo adoro. Che dire, non possiamo altro che ascoltarcelo, sperando che piaccia a voi quanto piace a me. E questa è sempre Donna Summer, qui adivata da Giorgio Moroder e Pete Bellot. Qui siamo sempre ai vinili di recupero di Basement Records, e questa naturalmente è Radio Wombat. Meraviglia, lo adoro veramente questo pezzo, fantastico, sono stato troppo felice di ritrovarlo e recuperarlo e portarlo qui per voi, quando ovviamente quando avevo fatto la puntata su Moroder era tutto in digitale, ora riascoltandomelo proprio in vinile, grande soddisfazione, grandissima. Ci sarebbe voluto un extended version di almeno mezz'ora per i miei gusti, da quanto mi piace questo pezzo, però vabbè, al di là, andiamo avanti al di là dei gusti personali, e sul piatto finirà un altro grandissimo gruppo di qualche anno dopo. Stiamo parlando della fine degli anni 70, anche se raggiungeranno il successo solo all'inizio, nella prima metà degli anni 80, per poi consacrarsi definitivamente negli anni 90, perché sono stati dei precursori. E stiamo parlando degli Yellow, gruppo ingiustamente non così conosciuto, ma erano un gruppo di base a Zurigo, quindi svizzeri, e già questo diciamo abbastanza sui generis. Ed era un gruppo di, chiamiamolo, synth pop, che si ispirava a grandi linee, visto la comunanza della lingua e dei luoghi, al synth pop industriale dei mitologici Kraftwerk, in questo caso in versione molto molto più leggera, anche se in realtà gli Yellow sono stati dei precursori di diversi generi a seguire. Uno su tutti, l'electronic body music di matrice più prettamente teutonica, ma anche la techno così propriamente detta, della zona di Detroit. Infatti, quando i dischi degli Yellow oltrepassarono l'oceano e furono iniziati e iniziarono a essere suonati dai DJ della scena techno di Detroit, la loro carriera ebbe un nuovo apice. Infatti, sono considerati tra le ispirazioni appunto di un certo tipo di techno. E appunto gli Yellow erano il braccio musicale di Dieter Meyer, che era fondamentalmente un artista multimediale, poi riciclatosi DJ, e con l'ausilio dei sintonizzatori di Boris Blank e dai nastri di Carlos Peron. E che dire, visto che volevo farvi sentire, a me piacciono particolarmente. Volevo farvi sentire sia il lato A che il lato B di questo singolo, che fortunatamente, se saprete i precedenti, se siete a conoscenza dei precedenti, ho controllato prima, perché essendo un singolo ma in 12 pollici, in realtà è a 45 giri. E primo estratto da questo singolo, che è Tied Up del 1988, quindi già la techno era già esplosa, eravamo già in una fase addirittura post house. Infatti eravamo con l'esplosione dell'acid house a Ibiza e in Inghilterra. Questo è Tied Up in Life del 1988, e questi sono gli Yellow, sempre qui ai recuperi vinilici di Basement Records, naturalmente a Radio Wombat. Gli Yellow. Tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up, tied up Questa era Tie It Up in Life degli Yellow e probabilmente avrete anche riconosciuto che questo è il pezzo che me ne sono accorto adesso, che è la parte musicale di una pubblicità recente che va in televisione ultimamente, di un grande marchio. Vabbè, lasciamo perdere, comunque è stato riutilizzato anche per questo, come capita a dei pezzi che comunque, anche se registrati decine e decine di anni fa, ancora nel 2022 non hanno perso la loro essenza. E siccome gli Yellow non sono poi così conosciuti, volevo farvi sentire un altro brano da questo maxi singolo. Infatti sul lato B ci sono altri due pezzi. Una è una re-edit della canzone che abbiamo appena ascoltato, e l'altra che ci andremo ad ascoltare si chiama Wall Street Bongo. Però una curiosità di questo, come spesso succede ai vinili di recupero, sul centrino del lato B vedo che questo vinile di recupero arrivava almeno una volta, i proprietari iniziali di questo vinile erano una certa Radio Blu di Villa Franca, Verona. Chissà se esisterà ancora questa radio, non lo vogliamo sapere, però curiosità, non è la Radio Blu qua della zona di Firenze, ma è una Radio Blu appunto di Villa Franca, Verona, a quanto pare. Vabbè, curiosità dai vinili di recupero. E adesso, da questo lato B di questo maxi singolo, ci andremo ad ascoltare appunto Wall Street Bongo degli Yellow. E siete sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, ovviamente su Radio Wombat, e dove se no. Oh, questa era Wall Street Bongo degli Yellow. Devo dire che è invecchiato, sono invecchiati discretamente bene questi pezzi. Infatti, come dicevo prima, gli Yellow, nonostante non siano poi così conosciuti al grande pubblico, sono stati non a caso dei precursori e degli ispiratori, appunto. E passiamo al prossimo vinile e cambiamo territorio, andiamo in Inghilterra, si ritorna a dei grandi classici, grande classico, è un genere abbastanza frequentato qua nei vinili di recupero di Basement Records, perché quella parte appunto tra 87 e 88 inglese, l'inizio dell'epopea acid house, appunto ci doveva essere qualcuno che aveva appunto abbandonato diversi vinili di quel periodo, che io prontamente vi ho recuperato. Questo mi aveva, vi dico la verità, mi aveva incuriosito, non perché conoscessi il gruppo che sono i The Blow Monkeys o il pezzo che è Wicked Ways, che non conoscevo, ma mi ha colpito il fatto che fosse mixato da John Morales, mi aveva convinto a prenderlo e a recuperarlo. Infatti John Morales è stato un produttore newyorkese, se non vado errato, se la memoria non mi fa difetto, ed è stato considerato forse il primo a usare l'editing, il re-editing dei pezzi famosi, perché quando era DJ si lamentava che i pezzi duravano troppo poco. Infatti la classica durata da singolo in vinile sono appunto quei 3 minuti e mezzo, 4 minuti, e lui per poter continuare appunto li voleva estendere. Però non c'era ancora il computer, l'editing e quanto altro, e lui è rimasto famoso perché lui, insieme ad altri grandissimi della scena newyorkese come Patrick Cowley, mi viene in mente Tom Moulton, tra i primi due che mi vengono in mente, hanno iniziato appunto, spinti anche dalle prove di Moroder, a fare delle versioni estese. E la particolarità dell'extended version, delle prime extended version di John Morales, era che usava un reel to reel, che vuol dire che per editare i pezzi lui se li faceva fornire su un nastro e poi letteralmente tagliava e cuciva altri nastri per allungare la versione, per quello reel to reel, da bobina a bobina appunto. E quindi lui mixava i vinili con le bobine, cosa che poi tanti altri produttori elettronici poi... una strada che verrà seguita appunto. Certo, in ambito accademico e sperimentale questa non era una novità, però diciamo nell'ambito della musica pop, permettetemi il termine, era un po' una novità. Ora qui questo disco, siamo nel 1987, vi stavo parlando appunto dei suoi esordi, che erano in questo ambito, che si sta parlando di metà fine anni 70, quindi ormai qui lui era una celebrità. Infatti fu chiamato in Inghilterra a fare la sua versione appunto di questa Wicked Ways in extended version dei Blow Monkeys, e questo sarà il prossimo pezzo che ci andremo ad ascoltare. Ovviamente sempre qui ai dischi di recupero di Basement Records, Radio Wombat. Belli vissuti questi dischi, eh? Ecco, devo subito fare ammenda e ricoprirmi la testa di cenere, come si suol dire, per un paio di boiate che vi ho appena detto. Devo fare ammenda subito. Infatti, innanzitutto il pezzo in questione non è dell'87, ma è del 1986, quindi non c'entra proprio. La seconda è che ovviamente. Poi sentendolo anche con l'acid house non c'entra proprio una benemerita, come si suol dire. Però appunto anche questa versione, anche questa short version era sempre mixata da John Morales. Però, cioè, niente, diciamo era andato là a fare era andato a fare marchetta, ecco. Diciamo un pezzo pop apprezzabile. Niente di che, 1986, non 87, siamo ancora abbastanza lontani, un annetto e mezzo, 2 anni dall'esplosione dance dell'acid house, anche se la zona comunque che fossero inglesi, almeno quella l'avevo detta giusta. E allora passiamo al prossimo vinile di recupero. E questo, quando ho visto la copertina, da una fa in un mi è venuto mi è venuto in mente la brusca, perché pensavo di avere tra le mani veramente una chicca trash, perché appena appunto, come mai? Perché questo è un disco di sempre remixato, anzi, editato e mixato e prodotto anche da Giorgio Moroder, quindi con me già si sfonda una porta aperta, però siamo già nella fase in cui Moroder stava appunto producendo la qualunque per vedere di tirare su, di sbarcare un po' il lunario. Però cos'era andato a produrre in questo caso? Questo è un disco che è a nome Falco Meets Brigitte Nielsen. È per quello che mi era venuto in mente il trash e la brusca, che ovviamente saluto calorosamente. Questo Falco, dovete sapere, che è un cantante austriaco che è divenuto famoso perché è il cantante della canzone relativamente famosa, diciamo, ma che era stata un po' una hit in quegli anni, di Rock Me Amadeus, un brano che divenne famoso poi appunto dopo, che venne prodotto anche ispiratosi al film proprio Amadeus. E Falco si ispirò appunto a quel film per fare Rock Me Amadeus, che ebbe un discreto successo anche sull'onda del successo del film. E questo è un suo lavoro successivo. Cioè, Brigitte Nielsen lì era penso agli esordi come attrice, siamo nel 1987, comunque già affermata e già famosa, specialmente in zona austriaca, Germania. Credo che ancora dovesse fare non so se, non voglio dire una cosa per un'altra, se già si era trasferita in America oppure no. Ma comunque questo è l'incontro di questo fantomatico Falco con Brigitte Nielsen, prodotti e mixati da Giorgio Moroder. Questo pezzo si chiama Body Next to Body, in questo caso la dance version di questa Body Next to Body. 1987, i vinili di recupero di Basement Records, naturalmente qui a Radio Wombat, Falco con Brigitte Nielsen, niente popò di meno. Via. Thank you. einer Hand wächst, dann war mir in den Himmel, als ich es fand. Weil es verändert, ich sag wie, es war hoch wie in die See. Now go, now. Hey honey, can't you see it? It's destiny, it is all for rockin' what you turn to. And I can bring your hips to the top, to the upper beat, but you see. Now go, now. Show me the way. You move your body night into day. Why should I wait for you to love me? Don't be too late. The way to make it happen. Body next to body, turn the pain to pleasure. I wanna know if you are the one for me, yeah. Body next to body, searching for the treasure, the magic in the mystery, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. insomma, Giorgio c'aveva da aveva da sbarcare il lunario, evidentemente. Sul trash non si discute, questa era abbastanza trash, devo dire, anche nella versione, diciamo, anzi proprio in questa versione dance mix forse è ancora più trash, ma è giusto che sia così, ecco. E il prossimo vinile, andiamo avanti di un anno, 1988, e questo è un altro singolone nel senso sempre un singolo a 12 pollici di questo gruppo che io sinceramente di cui ignoravo l'esistenza. Si chiamano Times 2, sono americani, come detto appunto siamo nel 1988, e questa è Strange But True nella versione vocal remix del 12 pollici, appunto. E che aggiungere se non andiamoci ad ascoltare? Questi appunto sono i Times 2, Strange But True, vocal remix, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Piacerebbe fosse così, ma evidentemente questo singolo non è a 45 giri, ma credo proprio che sia a 33, così a orecchio. Ripartiamo, che ne pensate? Times 2 a velocità normale. Pensavate di essere in chissà quale festa strana, eh? Invece la velocità giusta è questa. We'll be right back. Questi erano i Times 2 con Strange But True Vocal Remix 1988. E rimaniamo sempre nello stesso anno con altre vecchie conoscenze, perché in una delle precedenti puntate di Basement Records avevo recuperato un loro vecchio singolo di remix della loro canzone più famosa, ovvero Girl You Know It's True. Stiamo parlando dei Milli Vanilli, gruppo pop nato in Germania nel 1988, stesso anno in cui è uscito questo primo disco, appunto All or Nothing. Questo è proprio il primo disco dei Milli Vanilli. Vi dicevo appunto nella puntata precedente di Basement, quando l'avevo messi, che di loro conoscevo poco e nulla, se non il fatto li conoscevo per il fatto che appunto erano stati remixati da svariati producer e DJ. Era il motivo per cui conoscevo Milli Vanilli, nonché uno dei miei miti, Green Velvet, ci aveva fatto proprio addirittura una canzone a loro dedicata, andandomi un po' a scartabellare notizie un po' in qua e un po' in là. Ho trovato questa roba fantastica, perché io non la conoscevo, appunto, che è un po' l'emblema, appunto, del commercio nel senso più ampio del termine. Infatti, i due cantanti ufficiali, ovvero Fabrice Morvan e Rob Pilatus, non erano due cantanti, ma in realtà erano due modelli, ed erano stati reclutati appunto dal produttore Frank Farian, che è il titolare appunto del progetto Milli Vanilli, perché reputava i due veri cantanti, Brad Howell e John Davis, unmarketable in inglese, ora non mi viene come potrei tradurvelo, mi verrebbe da dire impresentabili, incommerciabili, insomma, non facevano l'effetto che facevano due modelli in copertina. Però qual è la particolarità? Morvan e Pilatus apparivano nei video e facevano i concerti di Milli Vanilli, ma tutto completamente in playback, con dietro le quinte appunto i due veri cantanti, Brad Howell e John Davis. E questo mi ha fatto un po' sorridere, perché poi il progetto Milli Vanilli nel 1990 vinse addirittura un Grammy Awards per il miglior nuovo artista, che però è l'unico, credo sia l'unico caso nella storia dei Grammy Awards, poi fu ritirato, gli fu tolto, quando poi scoprirono che i due in realtà con il progetto musicale non c'entravano assolutamente niente, ma erano solo due messi lì per fare figura, e quindi gli tolsero il Grammy. E questa cosa è mi ha fatto molto ridere. Allora, che è successo? Nel 1993, tre anni dopo, I due modelli si vollero rifare, appunto volendo dimostrare di essere degli artisti, dei musicisti, con la sigla Rob and Fab. Inutile dirvi che fecero un totale buco nell'acqua. E invece il produttore Frank Farian, poi dopo, successivamente, inaugurò questo nuovo progetto a nome The Real Milli Vanilli, ma anche lui alla fine non ebbe alcun successo. E è abbastanza ironico di come va il mercato musicale mainstream, no? Questa cosa mi ha fatto abbastanza sorridere. E di questo primo album ci sono addirittura due canzoni che finirono nelle posizioni altissime, addirittura anche sono stati per diverse settimane numero uno con il singolo, il primo singolo estratto da questo album, ovvero Can You Feel My Love? Ma volevo farvi ascoltare la terza traccia del secondo lato, ovvero Is It Love? Che poi sempre in quel 1988, forse l'anno successivo 1989, non ricordo, finì addirittura al terzo posto della classifica dei singoli più suonati delle discoteche americane. Pensate un po'. E questa appunto è Is It Love di Milli Vanilli, sempre qui ai dischi di recupero di Basement Records, naturalmente qui a Radio Wombat, e dove se no. Jealousy. Too long with a girl. My baby's upset. She questa era Is It Love dei Milli Vanilli dal loro primo album All or Nothing del 1988, di quel fake che abbiamo scoperto che fossero i Milli Vanilli, appunto. Però da un gruppo prettamente commerciale, prettamente fake come i Milli Vanilli, adesso il prossimo vinile di recupero è veramente di dei pezzi da 90, di quelli che hanno fatto no scuola, cioè proprio che hanno proprio tracciato una via, hanno tracciato proprio una strada nella storia della disco music. E stiamo parlando di quei miti degli Chic, con dietro quei due soggetti, quei due artisti assolutamente geniali come Bernard Edwards al basso e Nile Rodgers alla chitarra, che penso che riuscirebbero a farti muovere il culo e a farti ballare anche solo con uno starnuto, proprio da quanto, cioè, sono stati veramente geniali come produttori come arrangiatori, oltre ovviamente a essere geniali come musicisti. Non sta certo a me qui in questa sede, in questo Basement Records, ritracciare la storia di un gruppo leggendario come gli Chic. Ci vorrebbe un'intera puntata di Tonight Alive, ma questo appunto è un disco della loro età avanzata, infatti un disco del 1992, di quando poi ricominciarono ad incidere. Questo disco è Chicism, è proprio l'album del 1992, Chicism, dove è contenuto un altro grandissimo pezzo degli Chic, o almeno della fase matura degli Chic, ovvero Chic Mystique, scritto da Princesa e arrangiato da Nile Rodgers e da Bernard Edwards. Certo, non siamo ai livelli di Dance Dance Dance, di Le Freak o di Good Times, l'epoca d'oro che ha segnato la storia della musica e della carriera degli Chic. Sono la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80, qui già siamo un decennio dopo, ma come già detto, appunto, Edwards e Rodgers potrebbero scrivere un album anche solo starnutendo, ecco. E secondo me ne vale assolutamente la pena di sentirsi questa Chic Mystique, ovviamente degli Chic, naturalmente qui ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. Ora subito a ruota, sempre da questo Chicism, questo album del 92 degli Chic, ci andremo ad ascoltare Your Love, sempre degli Chic, 1993. Ricordiamocelo, siete sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. Questi sono gli Chic. E questa era la doppietta dedicata agli Chic dal loro album del 1992, Chicism. A me personalmente piace più questa seconda, Your Love, del singolone Chic Mystique, però appunto il singolone era quello, ho detto faccio ascoltare prima quello, ma poi non ho resistito e vi ho mandato subito di seguito anche questa Your Love. Infatti mi faceva comodo anche per aumentare un po' i battiti per stasera, perché è pur sempre sabato sera, è pur sempre estate, c'è voglia di divertimento, c'è voglia di proseguire, almeno per quanto mi riguarda, se non vi siete già sparati, e quindi è l'ora di alzare un po' i battiti. Andiamo sempre, torniamo indietro di un passo, torniamo nel 1988, sempre torniamo in Inghilterra, qui siamo più in un ambito più prettamente elettronico. Questo è un disco dei Blow che si chiama Go, edito dalla Ten Records. Che dire, non è che sappia molto altro se non il fatto che fossero un progetto di musica elettronica similaus, diciamo, anche se è una parola che viene assolutamente ripudiata, secondo me ingiustamente, qui all'interno di Radio Wombat, ma chiamiamola, diciamo che è house, dai. Però secondo me niente male, secondo me ne vale la pena di ascoltarlo, poi appunto vinile di recupero, quindi sono stati loro a scegliere me prima che io loro. E la cosa interessante secondo me di questo brano, di questo Go dei Blow, è che ne esiste un'altra versione, un remix contenuto in un altro singolo, appunto, di questo Blow, che si chiama Detroit Mix, e che è remixato e fatto da quella autentica leggenda che è Kevin Sanderson, uno dei tre padri fondatori della techno detroitiana. Purtroppo questa non è la versione techno di Kevin Sanderson, ma è la versione originale, appunto, di Go, dei Blow, sembra uno scioglilingua, 1988. I vinili di recupero di Basement Records, sempre qui su Radio Wombat. We'll be right back. questo era Blow, anzi, era Go Day Blow. Non male, non male anche nella versione originale. E appunto, per fare ammenda di non avere il singolo con il Detroit Mix di Kevin Sanderson, non è fatta, cioè è fatta apposta nel senso della scaletta, però non è fatta apposta nel senso della scelta del disco, ma anche questo è un maxi singolo di recupero per rimediare alla mancanza di Kevin Sanderson. Qui abbiamo uno dei tanti progetti di Kevin Sanderson, ovvero il Riz Project, progetto che ha fatto la storia appunto della musica di detroitiana e della discografia di quella leggenda di Kevin Sanderson. Il Riz Project è un progetto più orientato verso la house, non è così propriamente dura e secca come la techno. Era un progetto di cui facevano parte appunto Kevin Sanderson, Ann Sanderson, Michael Nanton e Rachel Kapp. Il Riz Project comunque ha fatto direi notevolmente la storia della musica dance. Questo è un singolo un po' particolare in effetti, perché non è il disco del singolo di I Believe, che è la canzone di Direct Me, che è la canzone che ci andremo adesso ad ascoltare, che in quel caso il singolo conteneva veramente, al di là della versione originale dei Riz Project, conteneva tutta una serie di remix veramente direi di mamma santissima proprio della musica dance internazionale. Basti ricordare che appunto in quel singolo il primo remix di Direct Me è degli Underground Resistance, niente proprio di meno che, direi, per poi trovare anche altre due versioni sempre a firma Riz, nel caso di il primo era il Groove Mix e il secondo il Riot Mix, forse per accompagnare gli Underground Resistance. Ma nel singolo che ho recuperato è particolare, che non sono neanche riuscito a trovarlo nei database, perché la prima facciata è il remix di Joey Negro, che è una leggenda della musica elettronica inglese, di appunto Direct Me. E la seconda facciata, non ve l'anticipo perché ve la farò ascoltare dopo, però ecco, è un po' particolare questo singolo, appunto, perché non è quello ufficiale né dei remix di Direct Me, di Riz Project, né del secondo brano che ci andremo ad ascoltare, che è sempre di Riz Project, ma ne parleremo dopo. Intanto ascoltiamoci appunto il remix che esattamente si chiama il Joey Negro Disco Blend Mix di appunto Direct Me dei Riz Project, e questi sono sempre i dischi di recupero di Basement Records, ovviamente qui a Radio Wombat. questo appunto era il remix di Joy Negro di Direct Me di Riz Project, e come vi stavo anticipando appunto poco fa, adesso ci andremo ad ascoltare il lato B di, anzi il lato A di questo disco, che è sempre a nome di Riz Project, però di una, di un altro pezzo, di un altro pezzo storico tra l'altro del Riz Project, che è I Believe. In questo caso è il Shazdamier mix. Shazdamier, un altro pilastro della techno di Detroit, è stato uno dei, dei fondatori del, del mitico Music Institute di Detroit, una delle discoteche prettamente techno più famose d'America, dove si sono fatte le ossa appunto personaggi come Shazdamier e Derrick May, ma che ha, dove hanno suonato e dove c'erano dentro un po' tutti i, i maggiori nomi dei, dei DJ detroitiani di, appunto, che iniziarono a suonare nella seconda metà degli, degli anni Ottanta. Una, un'altra curiosità, come, il, come nel brano precedente, il singolo originale di I Believe conteneva tutta una serie di remix leggendari, tra l'altro. Ora, questo di Shazdamier è di Shazdamier, quindi rientra nella mitologia, ma giusto per farvi capire... che erano anche gli altri interpreti che hanno remixato questo grande classico del, dei Riz Project, penso che basti nominare il Carl Craig B-Dub Mix, contenuto appunto nel, nel singolo originale, i tre remix di Mike Wilson, ma soprattutto un altro remix di sempre di Riz Project chiamato Riz Club Mantra, ma soprattutto un remix che vi ho già fatto ascoltare in una precedente puntata di Tonight Alive, quella riguardante al leggendario Laurent Garnier, mitico... mitologico nonché leggendario DJ e produttore francese, che in questo caso vi avevo fatto ascoltare il suo remix chiamato Frenchman in Stoke-on-Trent Ambient Chill Bass Room Mix, che è uno dei remix leggendari della discografia di Laurent Garnier. Però in questo caso sul piatto abbiamo il remix di Shazdamier, fondatore, ricordo, del Music Institute di Detroit. E andiamocela ad ascoltare. Siete sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records e siete sempre qua a Radio Wombat. Fighting one on one in the war. E questo era il remix di Chet Damier di I Believe the Riz Project di Kevin Sanderson, 1988, se non ricordo male. E passiamo al prossimo vinile di recupero. Storico vinile di recupero, direi. Qui torniamo dall'altra parte dell'oceano, torniamo in Inghilterra, torniamo a un gruppo che è stato tra gli alfieri dell'acid house, gli Shaman. E gli Shaman, gruppo della seconda metà della fine degli anni Ottanta, che raggiunse appunto della fine della metà degli anni Ottanta, essendo dell'acid house per forza, mi direte voi. E questo invece è un singolo estratto da quello che poi sarà il loro ultimo album, fatti dopo la anzi, subito dopo la registrazione di questo album e dopo aver girato il video del singolo di Move Any Mountain, il cantante Will Sin morirà a Tenerife, ufficialmente affogato. Poi se volete indagare ulteriormente, non vi aggiungo altro. Cioè, vabbè, diciamolo così, è affogato perché era in uno stato non proprio lucidissimo, diciamo. E da questo singolo degli Shaman, che si chiamerà dopo la morte, Move Any Mountain, dopo la morte di Will Sin, verrà rinominata Progen. E questo è un singolo edito poi nel 1990, e contiene il remix di quei DJ inglesi che portò il suono di Ibiza in Inghilterra e fece nascere l'acid house. Ora non vi voglio aggiungere altro, solo perché non è che ci ho fatto una puntata, ma ben due, su Tonight Alive, sulla genesi e sull'evoluzione dell'acid house. Quindi anche in questo caso, nel caso vi interessasse particolarmente, vi rimando a quelle due, direi, abbastanza esaustive puntate di Tonight Alive, che ricordo sempre potete andare a recuperare tra i podcast di Tonight Alive e Basement Records sul sito, appunto, su radiowombat.net. Lì c'è ancora tutte le vecchie puntate che vi potete ascoltare quando cavolo vi pare. E appunto adesso ci andiamo ad ascoltare il Paul Oakenfold, Land of Oz Mix di Progen degli Shaman, 1990. Questi sono sempre i vinili di recupero, ricordatevi, solo vinili di recupero di Basement Records, sempre qui a Radio Wombat. Progen, The Shaman, Paul Oakenfold Remix. coda fatta e ideata proprio appositamente per essere mixata, Bene, appunto questo era il remix, il Land of Oz remix di Paul Oakenfold di Progen degli Shaman, il nome che ha poi assunto appunto Move Any Mountain, brano del 1990. E adesso prossimo disco di recupero. L'ho recuperato perché appunto quando Scartabelli tra i vari box di vinili buttati lì e abbandonati a loro stessi, no, ma ci siamo quasi quando intendo vinili di recupero, mi sono trovato tra le mani questa copia promozionale, proprio con scritto proprio sopra promo copy, con il centrino bianco, proprio sembrava inizialmente una white label, con un nome che non mi ha fatto proprio pensare ad altro. L'ho preso senza andare a indagare oltre, perché stiamo parlando di una leggenda della house di Chicago, ovvero Joe Smooth. Però poi tornando a casa mi sono accorto che non era proprio una white label di Back Home di Joe Smooth. Cioè, il brano è quello, però è un single, un maxi singolo di remix editi dalla AM Records, storica etichetta italiana della dance anni 90. Tra l'altro appunto, quindi è una serie di remix, in questo caso di Tommy Musto, di appunto di Back Home di Joe Smooth. Ora, io pensavo d'aver trovato Joe Smooth con la sua versione di Back Home, invece ci andremo ad ascoltare appunto questo club mix di Back Home di Joe Smooth, Tommy Musto remix. Qui siamo sempre ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. Questa era il remix, il dance mix di Tommy Musto di Back Home di Joe Smooth. Comunque, anche se non è la versione garage house originale di Joe Smooth, devo dire produzione italiana niente male, dai, poteva andare molto peggio. Ricordo 1900, metà anni 90, ora non mi ricordo già più, comincia a farsi una certa ora, non mi ricordo più esattamente di che anno vi avevo detto che era, ovviamente essendo tutto completamente bianco ed anonimo non posso neanche recuperare al volo questa notizia che mi sono dimenticato, visto che la copertina è tutta completamente nera a parte l'adesivo promo copy e il centrino è completamente bianco con solo un adesivo attaccato sopra, appunto con scritto Joe Smooth Back Home. Bene così, non è andata per niente male per essere di recupero, dai. E poi, visto che siamo in questo ambito, rimaniamo in Italia per l'ultimo vinile di recupero di stasera, 1995, era del 98 se non ricordo male, Tommy Musto. Facciamo un passettino indietro, 1995, produzione romana della Dance Floor Corporation, loro sono i NORAD e il pezzo è un pezzo classico dell'Italo Dance più truce secondo me in assoluto, proprio, cioè, diciamoci la verità, secondo me è invecchiato proprio male quel suono lì, proprio cassa dritta. Ci siamo capiti, però All'interno di questo maxi singolo c'è una versione di questa Sending All My Love, che ora appena, secondo me, se avete una certa età, la riconoscerete questo pezzo, perché appunto nel suo ambito era abbastanza famosa, poi è finita anche in qualche colonna sonora di qualche cinefanettone italiano o roba del genere, o roba super trash tipo Boldi e De Sica o cose del genere. Però l'ultimo remix del lato B, secondo me, non è male, ed è invecchiato meglio del resto dei brani contenuti in questo maxi singolo. E loro sono i NORAD. Con Sending All My Love. Questa appunto era il French Planet Mix di Sending of My Love di NORAD 1995, Dance Floor Corporation di Roma. E cioè, se vi sembrava tamarra questa è perché non avete presente quanto lo fossero le altre tre. Questa ancora da qualche parte forse si può ancora salvare quell'altra. non me la sono sentita e visto che siamo ormai vicinissimi alle 3 ore di trasmissione e credo di essermi fatto prendere leggermente la mano, devo dire, va bene che è sabato sera, però questo era l'ultimo disco di recupero di stasera, anzi non proprio, e non posso fare altro che salutarvi, fare i saluti ormai a questo punto, augurarvi una buona notte, un buon proseguimento di sabato sera e di fine settimana, soprattutto qua sulle frequenze di Radio Wombat, e niente, non posso fare altro che rinnovare l'appuntamento con Basement Records o con Tonight Alive, chi lo sa, settimana prossima, massimo tra due sabati, dipende, spero di farcela per sabato prossimo, ai voi, e quindi buonanotte e vi lascio con l'outro, con la sigla di chiusura di stasera, con l'ultimo vinile di recupero. L'unico a 7 pollici se escludiamo la sigla, questo è Mori Kanté, un altro grande classicone probabilmente di quegli anni, e Yeke Yeke, buonanotte a tutti e a settimana prossima qua sulle frequenze di Radio Wombat. Un bacione, un abbraccione, buonanotte e buone botte. nadini kajigan wo bolilale hey ke bolilale nadini kajigan ke bolilale hey wa bilamba nadini kajigan ke wa billa nidaso wa bilamba nadini kajigan ke wa billado nidaso ndinda zorona kono mi matanyum fe ndinda zorona kono mi matanyum fe Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.